want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, one, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telesco. Siamo pronti per il soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio a tutti da Gegè Telesforo e buon pomeriggio al maestro Remo Anzovino, che è qui con noi nel Groove Master Studio per questo appuntamento dedicato alla musica di Radio 24. Ti dà fastidio quando ti chiamano maestro? Ah, preferisco sempre Remo. Comunque ciao Gegè, ciao a tutti gli ascoltatori. Remo Anzovino, pianista, compositore, lo posso dire, lo dico molto spesso a Radio 24 qui al Soundcheck, compositore visionario. Perché visionario? Ma perché sicuramente le mie musiche sono delle fotografie in movimento, sono fotografie della vita di tutti i giorni e quindi sono sicuramente visioni del quotidiano. Quello che noi facciamo molto spesso al Soundcheck è raccontare le storie, le storie dei musicisti, le storie che riguardano la musica. E possiamo brevemente raccontare il tuo rapporto con la musica? Come è nato? Dove è nato? Vieni da una famiglia di musicisti? Vieni da una famiglia dove erano presenti gli strumenti? Che cosa è successo quando eri bambino? Il momento della folgorazione. Al momento della folgorazione c'era un pianoforte a casa, a muro, i miei non suonavano, però in casa si ascoltava molta buona musica. Ho visto questo strumento, mi piaceva, ho detto: papà, mi fai suonare il pianoforte? E lui ha detto: va bene. E abbiamo suonato il pianoforte. A quel punto mio fratello Marco giustamente si è buttato sulla chitarra, e quindi da quando siamo bambini io e Marco, io suono il pianoforte e lui la chitarra. Quindi in famiglia la musica gira quotidianamente, con tuo fratello continui il rapporto anche per la tua musica? Sì, assolutamente, perché Marco suona le chitarre acustiche, le percussioni del mio gruppo e poi insomma facciamo sempre produzioni insieme. Ho letto però che hai anche studiato da persona seria e ti sei laureato in legge, giusto? Sì, e faccio anche l'avvocato, questa doppia vita, un po' Dr. Jekyll, Mr. Hyde, però devo dirti, è un pochino come se due persone sono sedute al bar, a un tavolino, e si stanno parlando, e se si parlano bene tra di loro è meglio non interromperle. Ma come hai fatto a conciliare le due attività? Perché sono un po' distanti, cioè qual è l'attività che arrotonda lo stipendio all'altra? Allora, devo dirti, la musica mi ha dato la prima indipendenza. Ho avuto la fortuna di iniziare a scrivere musiche per il teatro, per la pubblicità, per il cinema. Ero veramente piccolo, avevo 18-20 anni. E quindi questo è stato un grande insegnamento, che mi ha insegnato che la musica è un mestiere attraverso il quale si deve poter campare. Però poi mi piaceva molto il diritto, mi sono molto appassionato in particolare ai processi penali, e questo ha influenzato molto la musica che faccio, perché comunque i processi ti fanno vivere delle situazioni anche estreme e soprattutto delle situazioni comunque che hanno a che fare con l'essere umano. E siccome nella musica a me interessa non parlare di me, ma mi interessa raccontare le storie degli altri, è sempre una grande occasione tramite i processi poter scoprire veramente le mille sfaccettature dell'essere umano. Allora, io che conosco bene il lavoro del musicista, un po' meno quello dell'avvocato, però so che i musicisti devono vivere la quotidianità, ovvero col calendario aperto. Quando ti chiamano e devi andare a suonare, tu devi correre perché non puoi perdere quell'occasione. Tu come riesci a conciliare gli appuntamenti con lo studio da avvocato e la musica? Ma a volte ho molta fortuna che si incastrano le cose, che invece ho anche dei bravissimi collaboratori che mi aiutano, e devo dire a volte anche ho sempre trovato anche una certa disponibilità anche nei magistrati, a volte scoprendo che molti magistrati sono miei fan come musicisti, insomma, di se uno non esagera nelle richieste e fa capire che è una cosa importante e si può fare, insomma, qualche rinvio non fa male a nessuno. Allora, io vorrei presentare agli amici di Radio 24 questa nuova pubblicazione. Quanti dischi hai registrato fino ad oggi? Questo è il quinto disco ed è il mio primo live. Il primo live registrato all'Auditorium Parco della Musica, un album registrato anche molto bene, complimenti, suonato benissimo, si sente che la platea era gremita, era pienissimo, quindi si sente proprio il pubblico che partecipa alla fine di ogni brano. E vorrei far ascoltare subito agli amici di Radio 24 una tua composizione intitolata Metropolitan, che credo sia arrivi da Viaggiatore Immobile, giusto? No, Metropolitan forse era su Tabù. Comunque è un brano che abbiamo sempre suonato. Allora, ascoltiamo subito Metropolitan con Remo Anzovino qui al Soundcheck di Radio 24. Metropolitan, versione live per il maestro Remo Anzovino, ospite del Soundcheck di Radio 24, da questa nuova pubblicazione che semplicemente si intitola Vivo, registrata dal vivo all'Auditorium Parco della Musica quest'anno. Quindi in pochi mesi il disco è stato realizzato, registrato, masterizzato e distribuito dall'ottima casa discografica EGA, casa discografica con la quale collaboro anch'io in diverse occasioni. Quindi restate in contatto con il Soundcheck di Radio 24, Remo Anzovino è nostro ospite. Il sassofonista finlandese Timo Lassi si è fatto conoscere proprio con questa pubblicazione intitolata The Soul and Jazz of Timo Lassi. Il brano era Live at the Timber Yard, un brano dal sapore assolutamente latino. In questo appuntamento del Soundcheck con nostro ospite Remo Anzovino, pianista, avvocato. C'è un altro pianista, cantante, avvocato in Italia, forse più noto di te, ma perché ha più anni di carriera? No, perché lui appartiene a, diciamo, agli dei, appartiene alla di Paolo Conte, diciamo, io appartengo solo al genere umano, lui è al genere degli dei, quindi. Ah sì, è uno dei tuoi preferiti. Beh, insomma, Paolo Conte è uno che direi è un maestro, insomma, un maestro che ha saputo, tra l'altro, io vengo dalla provincia, da Pordenone, e una delle cose che ho sempre amato di Paolo Conte è l'aver saputo descrivere questa Asti, questa provincia un po' nebbiosa, in maniera universale, insomma. Tu recentemente hai vinto un premio importante per una composizione, che è una suite che hai dedicato alla tragedia del Vajont. Ci puoi raccontare che cosa è successo dal momento della composizione al ritiro del premio? Sono successe tante cose, perché ho scritto questa musica dedicandola al ricordo del Vajont, la feci subito ascoltare ai sindaci di quei paesi lì nel consiglio comunale di Longarone, poi la musica è iniziata a marciare con le sue gambe talmente bene che mi è arrivata questa richiesta di celebrare il 50° anniversario con un concerto proprio nel cuore della frana davanti alla diga del Vajont, cioè per farlo capire agli ascoltatori, dove praticamente Marco Paolini 16 anni fa fece la sua famosa orazione civile teatrale. È stato un momento estremamente toccante della mia carriera, perché abbiamo portato più di 2000 persone in un posto dove la vita era stata negata, sperduto, dimenticato per troppo tempo. E poi a un certo punto è arrivata questa lettera da Roma, insomma, questa convocazione in Campidoglio, il premio Anima, insomma, che è un premio che viene dato ogni anno sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, proprio per la sezione musica, come vincitore questo 9 ottobre 63 Suite for Vajont. Dicevamo che la tua musica è da visionario, nel senso che può sottolineare tranquillamente immagini, e molto spesso lo hai fatto, cioè molto spesso hai scritto musica quasi a commento sonoro originale di alcuni film muti. È un'esperienza che in qualche modo ha segnato il tuo percorso artistico. In Italia sei famoso per questo tipo di esperienze. Sì, mi ha segnato talmente tanto che a un certo punto, dopo aver fatto 30 film, ho capito che non volevo diventare il pianista del cinema muto, ma volevo riuscire a portare avanti invece la mia musica. Però ho ricordato sempre quella lezione, cioè aver imparato a musicare le immagini, perché ho sostituito le immagini del cinema con le immagini della vita di tutti i giorni, soprattutto rubandola, rapinandola dalla vita degli altri, dai racconti, dalle storie, e però ho sempre proiettato su quello schermo immaginario queste sequenze della vita quotidiana, immaginando che fosse un film. Il prossimo brano che vorrei presentare agli amici appassionati di musica di Radio 24 si intitola Musica per due. Lo puoi presentare, ce lo puoi raccontare? Musica per due è una musica immaginata dentro una locanda dove due sconosciuti si guardano e finiscono a fare l'amore. Questo è il soundcheck, la prova del suono di Radio 24, e domani ci sarà la vigilia di Natale con una puntata che sto preparando ormai da giorni con gospel, con il numero uno del gospel contemporaneo che si chiama Kirk Franklin, quindi mi divertirò a selezionare per gli appassionati di musica i brani più rappresentativi del mio artista preferito del gospel contemporaneo. Remo Anzovino è nostro ospite per parlare della sua musica, per parlare di musica e di vita, e fra le esperienze fatte legate alla sua discografia c'è anche una sessione fotografica con uno dei più grandi fotografi italiani nel mondo, che è Oliviero Toscani. Questa bellissima immagine che si trova in Viaggiatore Immobile, album che ha avuto un grande successo, tra l'altro le tue pubblicazioni in qualche modo raggiungono sempre la vetta della classifica di iTunes nel jazz, per quanto poi la tua musica sia anche più ampia come concept. Allora raccontami di Oliviero Toscani. Ma veramente a volte i grandi maestri ti stupiscono perché cercano di aiutarti nelle cose che fai donandoti la loro arte. Oliviero Toscani aveva assistito a un mio concerto piano solo, impazzito quando mi ha sentito, gli piaceva tantissimo, siamo diventati amici, io gli ho fatto sentire in anteprima le registrazioni a suo tempo di Viaggiatore Immobile, lui mi ha richiamato, ha detto oh, voglio regalarti la copertina del disco, allora mi ha convocato a Milano per lo shooting. Ho sempre questo ricordo bellissimo che io lo guardavo, adesso non so se tu hai presente come sono fatto, insomma pensate che davanti a quell'obiettivo c'era stata Claudia Schiffer, questa cosa ci faceva molto ridere, allora lui mi aiutava e diceva no però suoni meglio il pianoforte di Claudia Schiffer, e quindi questa cosa ci ha portato a fare questa copertina molto bella. E quindi dalla copertina viene fuori non solo l'espressione come dire carica e intensa di Remo Anzovino, ma anche le note presenti in Viaggiatore Immobile, che è un disco di successo, come dicevo, che è stato pubblicato pochi mesi fa, e poi adesso c'è vivo, pubblicazione dal vivo che ascolteremo fra pochissimo, dopo averti presentato il talento di questa vocalist americana, si chiama Gretchen Parlato, l'abbiamo già presentata qui al soundcheck di Radio 24, qui l'ascoltiamo da The Lost and Found, che è l'ultima pubblicazione per lei, il brano si intitola Circling. Parlato al soundcheck di Radio 24, e chiudiamo con la musica di Remo Anzovino. Io ti ringrazio tantissimo per essere venuto a trovarmi, ti auguro di trascorrere un felice Natale, domani se poi ascolta la puntata dedicata al gospel di Kirk Franklin resterai stupito dalla forza e dagli arrangiamenti di questo eccellente musicista. Chiudiamo con una composizione sempre proposta dal vivo all'Auditorium Parco della Musica con Remo Anzovino e la sua band che vorrei tu presentassi, il brano si intitola Tabù, che è un po' il brano che ti rappresenta. Sì, questo gruppo è veramente un gruppo straordinario. La mia idea era portare avanti l'idea molto semplice che una band rock con un'attitudine comunque rock, funky, pop potesse sostituire il cantante con il pianoforte. Quindi io quando suono sul palco mi sento proprio il cantante della mia band anche se non canto, e questa band è costituita da tre grandissimi polistrumentisti che sono Vincenzo Vasi, mio fratello Marco Anzovino e Alberto Milani. Allora, grazie a Remo Anzovino, il brano è Tabù. A tutti voi buon pomeriggio, buona musica e naturalmente auguri da Gegé Telespor. Soundcheck. Il suono della musica.